Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, romanzi al profumo di caffè, la miscela segreta di Casa Olivares di Giuseppina Torregrossa e Aspettami tra i fiori del caffè, scritto da Silvia Di Natale. Le scelte che non hai fatto, il nuovo romanzo di Maria Perosino, scomparsa la scorsa settimana. Per i festival letterari parliamo di quello di Gavoi, in Sardegna. Oggi siamo in compagnia di Giuseppina Torregrossa, ora in libreria con La miscela segreta di Casa Olivares, pubblicato da Mondadori. Di Giuseppina Torregrossa abbiamo già parlato in passato, Il cacciatore di libri, Il conto delle minne, Manna e miele, Ferro e fuoco, insomma altri romanzi che lei aveva scritto. Scrittrice siciliana di Palermo, ha ambientato questo romanzo a Palermo. Peccato che in radio non si possano sentire i profumi, perché altrimenti, come dire, questo romanzo dovrebbe essere accompagnato dal profumo di caffè, perché questo profumo è un po' uno dei protagonisti di questo romanzo. Che cosa evoca in te questo profumo? Ma il profumo di caffè è un profumo legato alla famiglia. Ogni mattina ci si sveglia con questa aroma di solito nelle case, anche se in epoca moderna si cominciano a considerare più gli aspetti negativi del caffè che non quelli positivi. Però in realtà per anni nella mia casa la mattina prestissimo, perché mio padre si alzava molto presto, alle 4 cominciava questo borbottio della moca sul fuoco e il primo caffè era per la mia mamma. Mio padre non ha mai fatto nulla dentro casa come tutti gli uomini siciliani di un certo periodo, però l'unica cosa che faceva era il caffè, per cui la mattina presto cominciava il primo caffè a mamma e il secondo era per me, alle 7 mi portava il caffè, per cui il caffè è un po' il profumo dell'infanzia, anche della tenerezza, perché lui ha continuato a portarmi il caffè fino a che sono rimasta a casa con loro, e c'era questo caffè, questo odore, questo profumo e una carezza sulla testa. Quindi, come dire, nulla di più affettuoso di una tazza di caffè. Dicevamo che il caffè è un po' un protagonista di questo romanzo, perché la vera protagonista, Genziana, fa parte di una famiglia che ha una torrefazione a Palermo. Siamo negli anni prima della guerra, è una famiglia che sta bene, insomma, economicamente, anche dal punto di vista dell'impresa, e c'è questa torrefazione che rappresenta un po' tutta la loro vita. Genziana ha una madre che legge addirittura i fondi del caffè, quindi tutto gira intorno al caffè. Questa vita così apparentemente perfetta viene però rovinata, insomma, dall'inizio della guerra. Che impatto ha la guerra sulla famiglia Olivares e sul modo, appunto, di vivere, sull'impresa che ha questa famiglia? La guerra, è inutile dire, è la negazione un po' della normalità ed è la negazione della floridezza, della felicità, del possesso. La famiglia Olivares, ma questo può succedere non necessariamente in tempo di guerra, succede adesso in quella che sembrerebbe un tempo di pace, all'improvviso le famiglie si impoveriscono rapidamente, vengono a mancare prima i soldi, poi i generi di prima necessità e infine anche i sentimenti, perché è innegabile che il cibo e la serenità poi influiscono sui nostri caratteri e diventa l'elemento acceleratore di un processo di scoperta di quello che è la verità, perché poi per negazione, come si procede in guerra, perché si nega la felicità, si nega il cibo, si nega la serenità, per negazione si arriva poi a scoprire qual è la nostra essenza. E lì si scopre un po' chi è il vero eroe, quello che è fedele a se stesso, quello che mantiene le caratteristiche immutate del proprio carattere. Viola, una donna così serena, così equilibrata, così forte, manifesta tutte le sue fragilità, mentre Genziana, questa bambina che ha un'infanzia felice in un momento di pace, con la guerra è costretta in qualche modo ad attingere alle risorse più profonde, e le risorse più profonde metteranno in evidenza prima le sue fragilità e poi la sua vera forza, i suoi punti di forza. Quindi la guerra agisce su questa famiglia non solo come elemento distruttivo, ma come risorsa per fortificare se stessi. Hai citato il cibo. Il cibo è sempre presente nei tuoi romanzi. Io ricordo il primo che ho letto era L'assaggiatrice Rubettino, se non ricordo male, pubblicato da Rubettino. E spesso il cibo è legato all'eros, alla passionalità. È naturalmente un connubio, insomma, che si fa spesso, ma perché è sempre presente nei tuoi romanzi? È un po' la tua cifra. Sì, un po' perché mi piace mangiare naturalmente, no? Quindi un po' perché sono convinta che siamo quello che mangiamo, per cui il cibo è in grado di influenzare il tono dell'umore, sia quando non c'è, che ci fa diventare aggressivi e nervosi, sia quando c'è in eccesso, che copre sempre, che tende sempre a coprire dei buchi e a riempire dei buchi della nostra esistenza, sia quando c'è in equilibrio. Ed è strumento di comunicazione, è strumento di seduzione, ma anche di manifestazione d'affetto, è il prendersi cura di qualcuno, l'atto d'amore, la madre fa il primo atto d'amore attaccando al seno il proprio figlio e dandogli quindi da mangiare. E poi perché mi permette attraverso, credo che le parole siano un po' come gli alimenti, mischiandole si riesce a tirar fuori qualcosa, perché la parola in sé per sé da sola può essere simbolo, ma mai veicolo di una situazione. Può essere esprimere un oggetto, un concetto, può essere veramente simbolo, ma modificandole, impastandole, mettendole insieme, poi il risultato può essere quella, per esempio, di una bella cassata oppure di un soufflé venuto male. E devo dire che Giuseppina Torregrossa ha iniziato da subito, insomma, a parlare di questo legame anche fra i suoi libri e il cibo, prima ancora della mania, insomma, della moda che è scoppiata, di parlare di cucina e così via. Quindi si percepisce che è una cosa proprio vissuta. Tornando alla protagonista genziana, ovviamente la guerra distrugge tante cose, distrugge anche le famiglie, porta via anche delle persone, e quindi lei è quella che dovrà sopravvivere, si dovrà ricostruire dopo le macerie fisiche, ma soprattutto interiori della guerra. Cos'è che le dà la forza? Ma io penso che Genziana abbia un nucleo di forza che hanno un po' tutte le donne, è un nucleo antico, una sorta di archetipo che viene fuori quando si è in equilibrio, viene fuori in tutte le circostanze. Talvolta è necessario invece scoprirlo, andarlo a cercare. È difficile da definire, è come il centro della Terra, quel nucleo di energia, di lava incandescente, come se fosse il nucleo della materia, ed è il nucleo della materia di cui sono fatte le donne. E c'è dentro passionalità, c'è dentro amore per la vita, c'è dentro Eros, però è un magma indistinto. Il problema nelle donne in genere è quello di riuscire a percepire e a toccare questo nucleo profondo di cui tutte indistintamente siamo dotate, perché ci nasciamo, non è che ce lo regalano. La difficoltà è contattarlo. Le donne talvolta fanno fatica a contattarlo e consumano i loro giorni in una sorta di insicurezza e di fragilità che non giova alla loro felicità. E talvolta proprio anziché cercare di contattarlo e cercare di guardarsi dentro e di raggiungerlo in qualche modo, si cercano dei percorsi alternativi che ci allontanano sempre di più da questo nucleo di forza, rendendoci sempre più fragili e sempre più incapaci. La difficoltà vera è cominciare a utilizzare questo grande nucleo che il Padre Eterno, per chi ci crede, la natura, il fato ci ha regalato. E sarebbe bello contattarlo presto, e forse la scommessa adesso è proprio quella di riuscire a insegnare alle nostre figlie a riconoscerlo subito. Ecco, credo che sia compito delle donne mature, di chi è mature, non mi riferisco a un dato anagrafico, mi riferisco a un percorso esistenziale di consapevolezza. Chi è riuscito a contattare questo nucleo, credo che sia compito suo quello di metterlo a disposizione degli altri e di insegnare il metodo. Un po' tutti i tuoi personaggi femminili sono forti, insomma, sono delle donne coraggiose che in qualche modo devono affrontare delle difficoltà. E il rapporto con gli uomini, anche magari per i periodi storici in cui sono ambientati, sono a volte problematici. Le donne vengono quasi assediate da uomini che non vogliono, che non desiderano, e invece poi cercano di raggiungere l'amore vero, quello che loro sentono. Anche in Genziana c'è questo rapporto, perché alla fine, insomma, viene corteggiata forse un po' insistentemente da un uomo, ma in realtà il suo vero amore è un altro. Ma Genziana, come tutte, nella mia esperienza, perché poi si tende a raccontare un po' quello che è l'esperienza non solo personale, ma anche l'esperienza collettiva, no, del contesto nel quale si è vissuto, è una donna che a un certo punto crede di essersi innamorata e crede di aver trovato l'anima gemella, prima ancora di contattare se stessa e quindi di sapere veramente quello che vuole. E naturalmente, come tutti gli amori non ben metabolizzati, sono sempre degli amori infelici, sono sempre degli amori che infragiliscono, che allontanano da se stessi e che soprattutto non regalano quella gioia piena cui tutti abbiamo diritto. Ci sarà un lungo percorso prima che Genziana riesca a comprendere veramente quello che vuole e poi a prenderselo quell'amore, che è quello veramente che il suo corpo, prima del suo animo, aveva già compreso. Ma è sempre è necessario che in questo percorso qualcuno le apra gli occhi, e talvolta chi ti apre gli occhi non è mai la persona che tu desideri. È un po' anche un romanzo di formazione, insomma, di crescita interiore di questo personaggio femminile, appunto Al profumo di caffè. Sì, è un romanzo di formazione, è un romanzo anche sociale, però, perché c'è un'epoca storica ben precisa, epoca storica in cui noi ci siamo giocati il nostro futuro. Subito dopo la guerra, nel 1943, noi ci siamo giocati quello che è stata poi la crescita del nostro paese. È proprio forse in quel luogo e in quel momento che si è giocato il destino dell'Italia. Il destino dell'Italia è il destino di Genziana, delle donne che sono nate in quel periodo, ma di quelle che sono venute dopo. Ed è un destino parallelo, sono due destini paralleli, cioè questo della città di Palermo e c'è quello di Genziana. Certo, c'è un profumo che lega i due destini, ma perché mi è piaciuto ambientarlo in questo quartiere, che era il cuore della città, dove questa torrefazione è sempre stata presente, c'è ancora adesso, quelle poche tracce, sono andata un po' cercando, come dire, sulle tracce della memoria, che è poi quella che definisce la nostra identità, sono andata a cercare quelle poche tracce che nella nostra città sono rimaste, e una di queste tracce è questa torrefazione che è rimasta inalterata. E poi il profumo ha smosso sentimenti. Grazie a Giuseppina Torregrossa, ora in libreria con La miscela segreta di Casa Olivares, pubblicato da Mondadori. E c'è un altro romanzo che profuma di caffè, si intitola Aspettami fra i fiori di caffè, l'ha scritto Silvia Di Natale, pubblicato da PM. È la storia di una ragazza italiana che proviene da una famiglia con una lunga tradizione di torrefazione. Il romanzo però si svolge in Colombia, nell'arco di due settimane ambientato ai giorni nostri. La protagonista si innamora di un ragazzo colombiano, proprietario di vaste piantagioni di caffè. Vivendo appunto in Colombia viene in contatto con il mondo del caffè, che è in crisi perché i terreni, che erano appunto piantagioni di caffè, vengono venduti per farne pozzi di petrolio. E allora sentiamo un estratto dal romanzo Aspettami fra i fiori di caffè. Ma che cosa mi aveva portato laggiù? O piuttosto chi? Per rispondere in maniera accettabile a questa domanda, devo dipanare la matassa di fili che ho davanti, contrassegnandoli, per così dire, con un pennarello colorato, e non è facile. Non posso affermare di essere partita per via del caffè senza far torto agli altri motivi. Portavo pur sempre con me, salvato nella memoria del computer, il manoscritto firmato da un professore scomparso mezzo secolo prima. E poi, non sarei andata a Tarama se Fernando non mi avesse invitata. Da dove cominciare? Meglio, tutto sommato, dal caffè, visto che i miei ricordi più antichi si mescolano al suo aroma e che la mia famiglia da due generazioni compra, tosta, macina e rivende caffè. Parliamo ora di un libro di un'altra scrittrice, Maria Perosino, Le scelte che non hai fatto, pubblicato da Einaudi. Avevamo già parlato l'anno scorso di Maria Perosino per il primo libro che aveva scritto, Io viaggio da sola, che tra l'altro aveva vinto il premio opera prima Rapallo Carige 2013. Parliamo di questo libro che è uscito la scorsa settimana e purtroppo non possiamo parlarne direttamente con l'autrice, una cosa che ci dispiace ovviamente moltissimo, perché purtroppo Maria Perusino, nonostante avesse soli 53 anni, è mancata proprio la scorsa settimana. È morta per una malattia e ci ha lasciato un libro molto bello, anche un libro che fa riflettere, ma un libro nello stesso tempo ottimista, gioioso a tratti. E ne parliamo con Dalia Oggero, che è appunto editor Einaudi e che oltre a essere amica personale di Maria Perusino ha seguito appunto l'editing di tutto questo, di questo libro. Allora Dalia, innanzitutto vorrei sapere, ecco, anche nella bandella, no? Viene un po' comunicato qual è il senso di questo libro. Viene scritto: quando facciamo una scelta, il più delle volte non è il 100% di noi a decidere, spesso anzi è un risicatissimo 51%. Tutti questi racconti, tutte queste storie che la Perusino ha raccolto in questo libro, sono storie di scelte. Un po' cita anche gli Sliding Doors, insomma il film Sliding Doors con Gwyneth Paltrow. Come era nata nell'autrice l'idea di questo libro? Sì, innanzitutto voglio dire che questa cosa, questa idea della vitalità è veramente centrale. Questo è un libro vitale, pieno di gioia, pieno di intelligenza che brilla, non scontata. E è un libro che si, come dire, sedimentato a lungo nella testa di Maria e poi nella penna, anche se di fatto poi davvero l'ha scritto negli ultimi 6 mesi di quella che è stata poi la sua vita, perché si è ammalata all'improvviso. È un libro, dicevo, che nasce da lontano e nasce da quest'idea di sì, l'assunto iniziale è proprio questo, che ogni volta che noi facciamo una scelta nella vita, che si tratti di amore, di casa, di lavoro, di figli, non è mai il 100% di noi, non siamo noi tutti interi a prendere una decisione. Faccio un figlio ora, aspetto 2 anni, cambio casa, cambio lavoro, sono o non sono felice con questa persona. Ecco, non è mai il 100% di noi a prendere una decisione, spesso appunto è proprio un risicato 51%. Ma questo 49%, questa vita che abbiamo scartato per un soffio, questa scelta che non abbiamo fatto, non è che immediatamente smette di esistere, smette di vivere, comunque una parte di noi resta ancora legata al mondo che abbiamo lasciato. Infatti, per esempio, nel libro si dice magari il fidanzato che abbiamo lasciato, per quel 49% siamo ancora innamorate di lui, però sappiamo che per il 51% è corretto prendere un'altra strada. Secondo te c'è più rimpianto verso questo 49% non vissuto, rimorso, nostalgia, malinconia? Cos'è il sentimento che prevale? No. Fra l'altro questa è una cosa di cui abbiamo proprio parlato con Maria tanto nell'ultimo mese. Rimpianto era una parola che non le piaceva, poteva ammettere la parola errore per quanto riguardava le scelte esistenziali che ognuno di noi fa e compie ogni volta appunto che fa una scelta o non fa una scelta. Il rimpianto invece ovviamente c'entra con alla fine con la mancanza forse di coraggio, mancanza di nel coraggio di esporsi e anche di rischiare, quindi no, non c'entra con il rimpianto, non c'entra con la nostalgia, anche se poi di fatto questo libro è un cercare se stessi nelle vite degli altri, cercare in un gioco di specchi continuo, perché quello che viene fatto in questo libro è raccontare la storia di tante donne simili nel momento della partenza, originariamente simili, con una specie di sintonia originaria, che poi hanno fatto scelte diverse nella loro vita, si sono o meno sposate, hanno avuto figli o non li hanno avuti, hanno fatto un lavoro piuttosto che un altro, sono diventate di fatto delle donne diverse. Quello che interessava Maria Perosino era proprio seguire queste vite, pedinare queste persone, ascoltarle, capire cosa erano diventate. E infatti ci scrive che io cercavo pezzi della mia storia, ho incontrato altre storie e mi sono piaciute. Con che atteggiamento la Perosino guardava queste altre storie? Perché gli scrittori naturalmente si fanno ispirare da quello che guardano, ma ci sono tanti tipi di atteggiamento. Ci può essere quello più giornalistico, come dire, di cronaca, quello che guarda più all'aspetto umano. Che cosa secondo te affascinava delle persone che lei osservava, o meglio delle persone che le raccontavano poi le loro storie? Tutto, perché Maria era curiosa dell'intelligenza degli altri, del look degli altri, delle scelte degli altri, dei pensieri degli altri, aveva proprio una curiosità ad ampio raggio. Quindi sì, lei cercava di capire, appunto amava il dettaglio, per cui magari un dettaglio incongruo, una sciarpa arancione poteva essere per lei rivelatrice di chi, di un mondo dietro quella persona, e amava invece anche proprio la dimensione del chiacchiericcio fra amiche, da cui emergono però verità esistenziali potenti. Quindi gran parte del libro è nato da vere e proprie chiacchiere fatte con delle amiche vere, e poi la realtà si è trasfigurata nella scrittura letteraria, e le persone non sono più riconoscibili, e insomma tutto si complica, però tutto nasce dalla vita. Per uno strano scherzo del destino, come a volte capita, Maria Perosino è morta proprio il giorno prima dell'uscita di questo libro. Una cosa che ha commosso molto, insomma, noi addetti ai lavori, chi la conosceva e insomma anche i semplici lettori. E Einaudi ha deciso di dedicare proprio uno speciale a questo libro, Maria Perosino, sul sito. Ci puoi dare qualche indicazione? Sì, c'è questo ritratto di Ernesto Franco, che ha conosciuto Maria a fondo negli anni. Le sue sono parole molto belle, molto, molto luminose, molto vere, molto poco retoriche, quindi consiglio davvero di andarsela a leggere, perché sono le parole di un uomo che la conosceva e che le voleva bene. C'è una cosa che mi piace sempre fare quando guardo i libri, è la pagina dei ringraziamenti, a maggior ragione in questo libro, dei ringraziamenti molto sentiti a tante persone che le hanno dato una mano, sia nel periodo della malattia, lo si capisce, sia nella vita comunque normale, come andava avanti. E mi piace citare l'ultima frase dei suoi ringraziamenti, perché insomma alla luce anche di quello che purtroppo è successo sono decisamente significativi. Maria Perosino alla fine dei ringraziamenti scrive: pertanto non mi resta che dire grazie vita. Ed è la vita quella che si trova nel romanzo di Maria Perosino, nel libro di Maria Perosino, Le scelte che non hai fatto, pubblicato da Einaudi. Grazie a Dalia Augero per averne parlato con noi. Grazie a voi. E prima di chiudere, per lo spazio dedicato ai festival, vi ricordo che quest'anno, da venerdì 4 a domenica 6 luglio, ci sarà il consueto Festival Letterario della Sardegna a Gavoi, che è un paesino della Barbagia, un festival giunto all'undicesima edizione, insomma una grande tradizione fra i festival letterari italiani. Fra gli ospiti italiani ci saranno Caterina Bombicini, Walter Siti, Paola Soriga, Fabio Stassi, Chiara Valerio, Marco Vichi, il collettivo Wuming, insomma ci saranno diversi scrittori, ma ci sarà anche un omaggio alla poetessa polacca Szymborska, un omaggio che verrà fatto attraverso una mostra dei suoi collage. L'appuntamento è quindi a Gavoi, in Sardegna, dalla 4 al 6 luglio con il Festival Letterario della Sardegna. Tutte le informazioni sul programma su internet isoladellestorie.it. L'Isola delle Storie è appunto l'associazione culturale che organizza questo festival. Ed è tutto anche per oggi, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che mi trovate su Twitter come Ale Teddina, siamo su Facebook e naturalmente tutte le puntate d'archivio su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.